Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ultimo italiano in gara. Dai. Partito. Tendiamo il suo tempo di spinta. Bellissima la fase di carico che ha avuto, una buona esplosione quando è stata ora di spingere la slitta all'indietro. Il tempo di conferma quello che abbiamo visto, tutto l'impegno che ci ha messo. Siamo ancora lì, 21 centesimi di vantaggio per Christo Rinnerhofer. Gli ultimi 30 secondi di gara, ultimi 30 secondi di speranza per Christo Rinnerhofer. Testa bassa. Ha perso qualcosina da Langenen, aveva 457 millesimi di vantaggio su Langenen, che è il primo in classifica in questo momento. 1:51:51, siamo lì, un centesimo dietro. Sotto si può recuperare qualcosina su Maier, qualcuno l'ha fatto. 456 millesimi di vantaggio, se Zöggler lo mantiene, è sul podio. Ultime curve per Zöggler, ultime curve prima della leggenda, e primo Zöggler, sicuramente a medaglia, Armin Zöggler, festeggialo tutti! Forza Cristo, 2:06:29, è secondo, è medaglia d'argento! Vabbè, Franco Biantanino, autore di questo programma, Roberto Scaltriti, i registi sono fatti prendere la mano dall'enfasi. Certamente bravissimi Rinnerhofer e Zöggler. Poi, caro Enrico, parlerò anche di Diamanti che va in Cina, però vabbè, copertina doverosa per i due italiani che gli erano portato due medaglie alla spedizione azzurra. E le gare olimpiche si confermano strane, anche perché, come sapete, tecnicamente quelle di Coppa del Mondo sono più complicate, perché qui solo quattro rappresentanti per paese, quindi molti carneadi. Tanto che la discesa libera l'ha vinta uno come Mattias Meyer, che il podio non l'aveva mai annusato in vita sua, mai visto. Bravissimo comunque Rinnerhofer, bravissimo Zöggler, bravissima anche Maria Pia Bas Beltran da Sochi. Ciao, grazie mille per questa bravissima sulla fiducia. Buongiorno a tutti. Senti, ma Zöggler si ritira o non si ritira a 40 anni? Non ho capito. Secondo me, non ancora. No. Io così a naso. Stasera lo incontro, per cui cercherò di capirne un pochino di più. La mia sera, che sono le vostre 5 del pomeriggio, per cui tra non molto. Cercherò di capire appunto quali sono le sue sensazioni e come si trova, perché ricordiamo che quest'uomo qui è nella storia delle Olimpiadi, cioè 6 medaglie, certo, non erano mai state raggiunte. No, certamente nella storia delle Olimpiadi, c'era anche prima di questa sesta, così ha messo la cornice su questa foto. E, insomma, però a 40 anni, se si ritira, una bella standing ovation, gli facciamo una bella festa. Però ogni tanto bisogna anche dire basta, quando proprio sei al vertice, almeno secondo me. 800 24 00 24, una domenica piena di un sacco di cose, oltre a quelle di sempre, cioè il calcio con tutti i suoi rumori, di cui parleremo tra poco, sta per arrivare anche Pardo al telefono. In ordine cronologico siamo partiti dalle medaglie di Sochi, però c'è, come detto, l'Italia del rugby che perde in Francia, anche questa non mi pare una notizia. C'è invece, e questa è notizia, Sassari che vince la Coppa Italia per la prima volta in Sardegna nel basket. C'è Maria Pia Vas Beltran che è caduta, la cui linea è caduta. C'è Raffaella che via SMS scrive: la vita è tutta una questione di curling. Brava Raffaella. 349-238-6666. C'è la difesa che dorme, che è quella della Juventus. C'è Conte che oggi ha provato a svegliarla, giorno di riposo annullato, tutti a Vinovo, gli ha fatto un mazzo così. Dopo il pareggio a Verona, recita la velina per un chiarimento profondo con tutti i giocatori presenti, Marotta e Nedved. Io resto convinto del fatto che, insomma, che questo pareggio faccia il gioco di Conte, che Conte non sia poi così dispiaciuto in fondo e quasi paradossalmente di queste amnesie, di questi sonni difensivi, perché non ha pagato nulla in classifica, perché la Roma non è stata capace di vincere il derby, e è un campionato stramorto. Io continuo a pensare servirebbero cose straordinarie, cose come appunto vincere un derby molto difficile. La Roma non è riuscita a farlo, rimane a meno 9 e questo meno 9 è inutile che lo si legga a meno 6, perché la partita con il Parma farà un'eternità, cioè ad aprile, e a quel punto mancherà poco alla fine del campionato, i giochi potrebbero essere già chiusi. Questo più 9 psicologicamente è un ulteriore punto a vantaggio della Juventus. È tornata Maria Pia Valsbertran, ciao, rieccoci, sei caduta? Si è fatto male, tutto bene? Mi sono rialzata da questa caduta. Sei rialzata dalla caduta. Cos'è successo oggi a Sochi? Allora, oggi facciamo un mini riepilogo perché c'è stato il debutto di Arianna Fontana, che si qualifica da sola nei 500 metri per quanto riguarda lo short track, passando ai quarti di finale, e la squadra femminile nei 3000 metri a staffetta approda alla finale, che si terrà tra un paio di giorni. Quindi per quanto riguarda le ragazze c'è un pochino di soddisfazione sul pattinaggio, non benissimo invece la discesa delle donne nella super combinata, perché la migliore è stata Federica Brignone, solo undicesima, ha vinto l'oro la tedesca Hoffelrich, quindi per quanto riguarda le montagne alpine non siamo andati benissimo. Bene, grazie, non siamo andati benissimo, non bene ma male, grazie comunque, ci sentiamo dopo Maria Pia, ciao. A più tardi, ciao. No, non salgo sul carro dei vincitori, Giorgio, ma a lei non interessavano le Olimpiadi invernali, insomma, faccio il mio mestiere questa cronaca. Sono molto contento delle due medaglie che abbiamo preso, molto bravi loro, mi riservo l'appunto secondo cui appunto quella olimpica è una gara molto strana, perché tecnicamente una gara di Coppa del Mondo è parecchio più complicata, tutti gli svizzeri che vuoi, tutti gli austriaci che vuoi, mentre qui quattro per paese, insomma, si conferma una gara molto strana. Questo nulla toglie a Innerhofer. Dunque, adesso abbiamo il traffico, poi arriva Pardo, cominciamo a parlare un po' di pallone, se ne avete voglia, 800 24 00 24. Tra le altre cose, c'è anche la storia dei fuorigioco, dei presunti rigori. È intervenuto Nicchi, il capo degli arbitri, che ha detto che ieri a Verona tutto bene, non c'era rigore, i fuorigioco non si possono considerare errori, i fuorigioco di pochi centimetri. Insomma, questa è l'opinione del capo degli arbitri. Strade. Sochi 2014. Tutti convocati. Anche Innerhofer saluta l'ingresso di Pierluigi Pardo. Sì, buongiorno, come va? Benissimo, tu? Tra l'altro in classico accento napoletano. Grande Innerhofer. Pierluigi! Ha detto solo Pierluigi. Non ti licenzia più, Mughini. Vabbè. Cosa fai stasera? Stasera faccio. No, lo so cosa fai, ma chi c'è? Un grande bar facciamo stasera. Sì. C'è il signor Cruciani, il signor Liguori, che si programma il derby. Sì, si menano? Cruciani e Liguori si menano? Speriamo di no, insomma, speriamo che rimanga tutto in termini di civiltà. Poi c'è Enrico Ruggeri, c'è Serena Autieri, tifoso del Napoli. Okay, sì, quindi vediamo l'arco istituzionale: Lazio, Roma, Inter, Napoli. Sì. Poi c'è Maurizio Crosetti, che conosciamo Maurizio Crosetti. Poi c'è Raffaele Urienna, poi c'è una roba con Federica Nargi, ti ricordi più. Poi c'è Costanza Caracciolo. Ah. Ex Velina. A proposito di veline, non quelle tipo la Nargi, eccetera, eccetera, ma quelle che fanno, quelle ti ricordi, quelle tipo Pravda? Sì. Che... Allora, Conte tiene a rapporto la Juventus, annullato giorno di riposo, li chiama tutti, gli leva la pelle, li scuoia per bene, e io credo che quel 2-2 faccia il gioco di Antonio Conte, perché così almeno può liberamente massacrarli per tutta la settimana. 9 punti di vantaggio, è inutile che li leggiamo 6, perché l'ho detto prima, la parte con il Parma è quando, insomma, sarà già primavera, e chissà cos'è successo, quei 9 punti e quell'acqua di Roma-Parma ha annacquato anche il campionato. Altra velina: Galliani lascia filtrare l'indiscrezione secondo cui Berlusconi non è affatto arrabbiato con Seedorf. Stamattina si sono sentiti, come fanno tutti i lunedì, e allora diciamo Berlusconi tranquillo. Quindi, vuoi altre veline? Ne ho tante, no. Vai. De Laurentiis vuole la finale di Coppa Italia. Questa non è una verina, ma una dichiarazione. Ho scelto Benitez per vincere e ora voglio la finale di Coppa Italia, dice De Laurentiis. Perché Pallotta vuole perdere, no? Sì, Pallotti. Ah, vuole perdere, sì. Ma insomma, da dove partiamo? Da questo. Tutti dentro a saltare, va Romulo, la palla gira bene per Toni! Luca Toni, solito gran gol di testa, e il Verona torna in partita con l'11° gol stagionale del numero 9. Il cross di Romulo, il pareggio di Juanito Gomez, il Verona agguanta la Juve al quarto minuto di recupero. Finisce così, finisce 2-2, in rimonta il Verona. Riacquanta la Juve, due gol di Tevez nel primo tempo, nella ripresa Toni e Juanito Gomez. Alle disattenzioni diventa difficile porre rimedio. Dico che dovremmo essere molto molto più attenti, altrimenti rischiamo di vanificare tutto quello che di buono abbiamo fatto. E ci facciamo un bel esame di coscienza, anche perché, ripeto, il campionato è molto lungo, non si è vinto niente. Noi sappiamo che negli anni passati la determinazione, la forza, la cattiveria, l'entusiasmo, la voglia, la decisione su ogni contrasto ci ha permesso di vincere 2 scudetti, anche inaspettati. Quest'anno dovrà essere la stessa cosa, altrimenti quest'anno sarà molto difficile ripeterci. Allora Pierluigi, l'esame di coscienza deve farlo anche Conte? O solo i giocatori? Ma, insomma, secondo me sì, perché un allenatore che comunque è abituato a essere un perfezionista deve anche certamente chiedersi se ha sbagliato qualcosa, non è che il ragionamento ci sta, e sicuramente la Juve nel secondo tempo qualcosa ha sbagliato. Sì. Sembrava veramente una partita morta e sepolta. 5 gol nelle ultime 7 ha preso. Sì, ecco, io credo che qualche leggero, lievissimo scricchiolio si veda rispetto, ma dico rispetto, è come quando fai rispetto alle politiche del 2008, ecco, rispetto alla Juve delle 7-8 partite strepitose post Firenze, quella proprio sì, che non succhiva di rimporta, mi sembra che questa delle ultime gare, vabbè, ma qualcosina non sarà fisiologico? No, no, non è fisiologico questo? Sì, ma è fisiologico, ma infatti il paragone tu lo fai con una squadra perfetta, quella di qualche giornata fa, adesso è un pendolo perfetto per arrivare alla prima squadra d'Italia, e tutto sommato, insomma, ieri alla fine ha perso solo il 90esimo, rendendo il campionato ancora abbastanza aperto, almeno per chi lo vuol vedere tale. Bah, io non mi allineo su questa posizione, secondo me è stramorto il campionato, continuo a ripeterlo, e dico anche, aggiungo anche, ripeto anche che quei 9 punti in classifica nei mind games delle squadre, degli allenatori eccetera, valgono 9 punti, non valgono 6. Gaetano, provincia di Modena, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Io ritorno un attimino sul fatto sulla questione delle Olimpiadi invernali che non entusiasmano. Sono d'accordo con lei, non vedo personaggi che magari facciano comunque guardare una gara, qualcosa, sì, anche se non ti interessa, come poteva essere per esempio Tiger Woods, certo, negli anni d'oro, ma ecco, certo, le superstar, o nei momenti, o non so, o Stenmark, d'oro, o Lindsay Vonn, non mi piacciono, che dico, non riesco a guardarle, è quello, sono che, ma è quello che dico di io, lo sport, perché non, io non, grazie a lei, non vivo con il tricolore vicino al letto, quindi mi esalta di più vedere delle superstar, dei grandi campioni, e in questa Olimpiade non ne vedo, dunque insomma non faccio le capriole davanti alle gare olimpiche. Comunque, no, ma rispetto al passato c'è molto più sport in TV, quindi sì, la quantità di eventi che ci fomentano è nettamente superiore. Io credo che le Olimpiadi conservino il loro fascino nel momento nel quale rifletti sull'essenza, su ciò che rappresenta appunto l'essenza dello sport. Sì, sì, ma questo nessuno lo mette in discussione. Il lavoro degli atleti, sì, che è meraviglioso, certo. Cioè, poi da qui adesso a scoprirci improvvisamente tutti, no, appassionati, poi, di stiamo di parlando karting, non, allora stiamo parlando di professionisti, lascia stare il karting e le palle di neve, però stiamo parlando di professionisti, quindi non è che diciamo quegli stronzi dei calciatori, invece questi qui poveretti si fanno un mazzo così e non c'hanno niente, no, insomma stiamo parlando pur sempre di sport professionistico, e se parliamo di sport professionistico, di spettacolo televisivo, io mi emoziono di fronte a grandi campioni e grandi personaggi, qui non ne vedo. Gianluca Viterbo, buongiorno. Buongiorno ragazzi, mi permetto questo piccolo, diciamo, appel da Dio, perché siete una piacevole compagnia durante il sì, viaggio. Sì, sì, no, ma noi apprezziamo, per i ragazzi, soprattutto io, parlo molto giovane. Senti, volevo aprire una piccola finestra sulla Coppa Italia di basket, perché sì, ho visto delle grandi belle partite e mi sono emozionato alla vittoria di Latina. Anch'io, ecco, quella è una cosa che mi emoziona, al di là del fatto del basket è uno sport che mi piace molto, però mi ha emozionato vedere Sassari che vince questa Coppa Italia, la grande gioia della Sardegna. Vorrei con tutte le mie forze andare insieme a Pardo a Sassari oggi a festeggiare, ma non possiamo, però io ho visto le semifinali, sono stato sabato al palazzo, ma c'ero anch'io, dove stavi? Come c'eri anche tu? C'ero anch'io. No, chiamami, no? C'era anche io. Ma non ci pensavo. Dov'eri? Eri in mezzo ai VIP, sì. No, che VIP, ero nel parterre con il biglietto, insomma, mi sono divertito molto, è uno spettacolo eccezionale, anche se poi in realtà credo che la Federbasket, per il discorso dei bacini di utenza, non è che abbia proprio gradito moltissimo le eliminazioni di Milano soprattutto, però, e di Roma, però è la bellezza, sì, appunto, e di Cantù, potevamo vedere il derby, invece abbiamo visto Sassari meravigliose, Reggio Emilia con l'unica vera superstar del campionato italiano, che è James White, giocatore più forte del campionato, non ho dubbi su questo. Poi non è colpa della federazione, neanche della Lega, se questi si suicidano, cioè voglio dire, Milano figuraccia, epocale, i due dinner, io una volta c'era quella storia su Gervin, sì, la tua vita dipendesse da un tiro da tre punti o da, sì, un tiro da tre, bravo, ecco, io la tua vita dipendesse da un tiro da tre punti, in questi giorni qui, se la mia vita dipendesse Drake, il pallone, se a Drake, al signor Diner, a uno a caso dei due signori Diner. Che ieri Drake ha fatto 0-6 da tre punti, ma ha alzato la coppa. Simone, provincia di Pesaro. Buongiorno, grazie, buongiorno, dell'opportunità. No, volevo dire, voi esaltate sempre Conte, ma da quasi tre anni la forza della Juventus è la forza fisica. I numeri dicono che è la squadra forse che corre di più in Europa. Appena infatti cala un attimino, come è successo ieri, ha dei problemi. Ecco. Cioè, ogni tanto ringraziamo anche i preparatori, io non sono della Juventus, ma dovrebbero, sì, ringraziare i preparatori che rendono questa squadra, addirittura Madrid in uno di meno, ha corso più del Real Madrid per, sì, dare, sì, via. Fa bene, a Roma con la Lazio sembrava la Lazio uno di meno. Ecco, no, bisognerebbe dire un grazie, perché tre anni che corrono così, bisognerebbe dire anche un grazie ai preparatori, ecco. Solo, sì, la giriamo a Conte questa, perché noi ovviamente ci riferiamo a Conte come responsabile dello staff, poi lui vuole la squadra così, non è soltanto una squadra che corre la Juventus, però io credo che Barzagli, il signor Barzagli, caro Pierluigi, sia il giocatore forse più importante della Juventus, sto esagerando, sì, però senza di lui hai visto che non sanno stare. Sì, io credo che sia vero, che Barzagli è un giocatore del quale magari si parla un po' poco, nel senso che è meno mediatico di altri, e quindi questo lo rende, diciamo, meno poi su questo discorso qui, di anche, non so se tu vuoi parlare o no di Balotelli, delle lacrime, allora Barzagli è uno di quei giocatori dei quali si parla poco, si parla poco per tutta una serie di cose, ma non per cattiveria, tra l'altro a me è simpaticissimo, ma perché sicuramente, insomma, non ha una vita regolare, diciamo, sì, non ha particolari, ecco, però è un giocatore fondamentale negli equilibri difensivi della Juve, e devo dire che è anche il più regolare, secondo me, dei difensori della Juve, più regolare di Bonucci, più regolare di Chiellini, non me ne voglio, no, ma è verissimo, è così, è il punto di riferimento, assolutamente. Ma no, a proposito di Balotelli, le lacrime glisserei. Mi hanno detto che ieri tu e Capuano avete parlato malissimo di Super Mario. No, io no. Ai. Ieri ero quasi balotelliano come te. Però davvero? Ti posso anche. Allora, per me i piani sono due. Abbiamo ascoltato Hai sentito Boban? Ecco, questo stavo dicendo. Io sono abbastanza d'accordo con Boban. Cioè, io sono convinto che Balotelli, ma questa è una cosa che ho detto spesso, quindi mi annoia quasi ripetere, però, insomma, ancora ad oggi non abbia fatto una stagione vera da fuori classe assoluto, da trascinatore assoluto. L'anno scorso dava la sensazione di poterlo essere, con quei 12 gol, 6 sul rigore dei primi 5 mesi rossoneri. Sì, però quelli sul rigore io li tengo, cioè non sì, vabbè, anche perché ho i numeri, 133 partite tra Inter, Milan e Manchester United da titolare, non lo so, ma pochissime, 61 gol nel Milan, 21 gol in 30 partite. Sì, ma un poca roba. Però no, la roba è tanta. Il punto, secondo me, è se questo giocatore è diventato il perno il campionato di classe attorno al quale costruire una grande squadra. E questo, secondo me, per tutta una serie di aspetti, anche comportamentali, non giriamoci attorno, non è vero. Ma questo sono d'accordo. Come ho spesso sostenuto, il primo a pagare le sue bizze comportamentali è lui. Certo. Perché poi le giornate di qualifica, 21 di fare, da questo momento in carriera, insomma, poi alla fine te le porti dietro, sono occasioni perse, magari c'è qualcuno che ti scavalca nelle gerarchie, magari perdi autostima, e quindi alla fine è tutto un meccanismo che... Detto questo, quindi dal punto di vista tecnico, io sono abbastanza critico, ma quindi, dal punto di vista umano, siccome ieri c'era mezzo processo, cioè, potrà piangere questo momento oppure no? No? Perché, no, perché quando fa le risse, veramente lo critichiamo, no, e sono io prima a criticarlo. Poi una volta va in panchina, piange, non mena nessuno, sta lì, vogliamo, cioè, allora che deve... No, ma guarda, sinceramente mi importa niente né di una cosa né dell'altra, cioè no, che fa le risse in campo sì, perché è fronte calcistico. Io calcisticamente noto che a Napoli ha fatto schifo, punto. E poi le lacrime, va bene, fanno parte di uno che è anche un ragazzo di 23 anni, è un uomo. 800 24 00 24, vi aspettiamo dopo la borsa. Convocati. Infatti sono altamente deluso, signor Pardo. Avevamo un accordo. Vi ho pagato perché vi occupaste di Juan. Avete preso il denaro e mi avete dato la parola di mantenere l'accordo. Attento, signor Pardo. Il tempo rimette le cose al loro posto, sempre. Cos'è sta roba? Ah, non so, la pescata Piantaneta. Avete dato... No, prima sentivo nella informazione... Telenovela Il Segreto, Canale 5. Ma come, non sai, non conosci i programmi di casa tua? Il Segreto. Se nel Segreto c'è il signor Pardo? E che ne so io? No. Io non l'ho mai visto, ma io posso. Tu? Straordinario, sono subito mandata ai legali. Magari riusciamo a... Ma ascolta, ma sentivo prima nella informazione dei mercati finanziari, siete pieni di soldi, 700 milioni di euro per il triennio 2015-2018, diritti TV a Mediaset. Ce n'è un po' anche per me? Chi l'ha detta questa cosa? È ufficiale? Beh, ho sentita prima nella informazione dei mercati finanziari, la borsa. Io... Monica Lodi l'ha detto. Io non so nulla, nulla so, lo apprendo da voi, ma in quel momento lì stavamo passando dal cellulare al fisso, quindi... Sei un pagliaccio. No, veramente, non so nulla. Ma no, ma dai, come non sai nulla? Cioè, che sia, che l'asta stia finendo, questo si sa, che c'è questo... L'asta sta finendo. Non se ne va, vabbè. Ho capito. Allora, Erarigo, quello di Verona? Scusa un attimo, sto volendo... Era a rigore, quello di Verona? È a rigore, stasera lo scopriamo con Cesare. Secondo te? Per me no. Secondo me... Boh. Mi sono rotto di parlare di arbitri. Bravo, grande. Grande parlo. Cioè, tanto... democristiano proprio sbardelliano. Proprio veramente, vecchia Doroteo, Doroteo. Sai chi c'è in linea? No, lo sai, perché non te l'ho detto. Volevo farti una sorpresa. Vai. Tacchinardi, Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Io prima ho detto che paradossalmente queste smagliature difensive fanno il gioco di Antonio Conte, che questa settimana potrà massacrare i suoi ragazzi. Perfettamente ragione. Sì? Penso che hai toccato il punto giusto. A volte... È un po' come Mourinho, no? Il mister va a trovare gli aspetti negativi per poi rigirarla nel tirare ancora più fuori ferocia, cattiveria. E fa anche strano sentire il mister dopo un due pari, è vero, raggiunto da un Verona comunque in grande Verona, che, grande Verona, sì. Insomma, un grande Verona, si fa anche strano sentirlo con quella cattiveria, con quella ferocia dopo una squadra che comunque sta facendo qualcosa di eccezionale. Però è così... prenderlo o lasciare, io sono convinto che però questa squadra abbia bisogno di questa ferocia agonistica, perché sennò renderebbe meno delle sue qualità. Ricordiamoci cosa è successo con la Fiorentina, da lì è successo un exploit di vittorie importantissime, e questo Antonio sicuramente si attaccherà per fargli capire che in questa annata qua, dove la Roma sta tornando secondo me prepotentemente alla ribalta, ha paura magari di non riuscire a vincere lo scudetto, quindi fa bene secondo me a pigiare sull'acceleratore, anche se ha un martello incredibile. Sì, io credo che la Roma per tener viva qualche chance doveva vincere il derby di ieri, cosa che non è riuscita a fare, dove non arrivano gli stimoli della classifica, perché a più 9 dove li trovi gli stimoli? Devi fare la corsa con te stesso, no? E Conte trova appunto questo non è un pretesto, questo appiglio, diciamo così, Pierluigi. Sì, io credo che ieri onestamente la Roma non possa rimproverarsi molto, nel senso che comunque la stranezza di questo campionato è che chiaramente anche un pareggio diventa una tragedia, ecco, perché visto il livello, certo, al quale viaggiano le prime due soprattutto, le prime tre soprattutto, è così, è esattamente così, cioè il vecchio concetto della media inglese è completamente superato. No, oggi, turno favorevole alla Juventus. Oggi un pareggio che ci può stare in una partita complicata come il derby, o un pareggio come quello della Juve a Verona, è quasi una tragedia, questa è la verità. Se non è una tragedia né da una parte né dall'altra, è perché hanno pareggiato contemporaneamente tutte e due. Certo. Forse è la prima volta che succede quest'anno che tutte e due pareggiano. Certo. La prima volta Juve e Roma perdono una giornata in meno, distacco invariato, la Juventus ha vinto questa tappa, se vogliamo metterla così. Perché poi Alessio, quei più 9 adesso dicono, vabbè, però c'è la partita col Parma da recuperare, teoricamente più 6, però la partita con il Parma si gioca ad aprile, quindi tra un sacco di tempo, è quasi primavera, sarà primavera, mancherà poco alla fine del campionato. Io credo che quell'acqua di Roma-Parma psicologicamente abbia ulteriormente annacquato il campionato. Ma no, sì, può essere sicuramente in questo momento qua, quei 9 punti che poi non sono, possono creare magari una distanza diversa, ma la sensazione invece è che la Roma ci creda, ci creda, e come io penso che ieri esca più rafforzata la Roma della Juventus, perché farsi raggiungere i 2 gol a Verona, la Juve ha perso dei punti pesanti, quindi probabilmente possono essere 6 e 6 sono pochi, perché la Roma è una squadra comunque veloce, frizzante, leggera, che in primavera può andare ancora più forte, quindi è vero che in questo momento qua può avere spaccato un po' il campionato, ma a pelle penso che la squadra di Garcia possa e ci creda, e Antonio invece, il mister, abbia la sensazione che questa squadra, quando cali un po' quella tensione, non è poi quella squadra schiaccia sassi che poi si vede tutte le domeniche, perché ha bisogno veramente sempre di avere il piede pigiato sull'acceleratore. Io sono d'accordissimo, credo che la Juve sia la strafavorita, cioè io credo che all'80% vince il campionato la Juve, al 20% la Roma, quindi per me queste sono le proporzioni. Però secondo me ieri non è una giornata così negativa per la Roma, anche per l'andamento delle partite. La Roma comunque aveva la complessità speciale di una partita complicata contro una squadra che sta bene in salute, e ovviamente è un derby, quindi è una partita che sfugge a tante logiche anche razionali. La Juve era avanti 2-0, aveva praticamente chiuso il campionato e ha mostrato degli spicchioli che comunque, insomma, secondo me un mese fa non c'erano. Questa è la sostanza. Sì. E poi c'è anche da dire che la Roma è in una delle rare situazioni di stress fisico della sua stagione. Cioè, ma gioca sempre, non fa turnover, giustamente, Garcia, gioca con quelli. A me piace questo modo di intendere. Tre partite in 8 giorni, allora sì, si fa fatica, no? È chiaro, si fa fatica. Su cosa vuoi interrogare Tacchinardi, Pierluigi? Sull'Arsenal? Sì. Ah, va bene. Ma tu sei simpatizzante o no? Mi pare di sì, no? Sì. Hai preso 5 fischi. Una tragedia l'altra sera. Chi lo vince in Inghilterra? Mourinho. Guarda, alla fine per Luigi la sensazione è che la spunti ancora la vecchia volpe di Mourinho. Che è partito giocando contro il Manchester City la settimana scorsa a criticare, no? Che è sempre aiutati dagli arbitri, alla fine ha vinto 1-0 a Manchester, quindi mi piace l'Arsenal, mi piace il City, e Leonardo da Pellegrini gioca un calcio spettacolare, sempre in avanti, sempre che attacca in avanti, vedere una bella partita. E devo dire la verità che vedendo Napoli-Roma di Coppa Italia ultimamente mi è piaciuto, mi sembrava di vedere una partita del campionato inglese, però alla fine la sensazione è che lo vinca ancora Mourinho, perché forse è veramente il numero uno. Sì, lo è, secondo me lo è, idolo assoluto per me Mourinho. Sì. Anche hai sentito quando prima di giocare col City ha detto ma lasciate un champagne frigo, quest'anno non facciamo niente, ma costruiamo per il futuro, quest'anno tranquilli ragazzi, non vinciamo, No, poi aveva dato una stoccata a Benito, che l'anno prima non eravate lontani, quindi lui non mette pressione sui giocatori, la mette sulle altre squadre. Però alla fine è veramente un grande. Ma anche per quello io credo che giocare per un allenatore come Mourinho per un giocatore sia il massimo, perché ti leva qualunque tipo di pressione, il grande parafulmine. Alessio, invece volevo chiederti dell'Inter, 3 punti, gol di Samuel e basta, non ho visto moltissimo altro. Beh, un buon debutto di Hernanez, però non ho visto tantissimo. No, sono d'accordo, un discreto debutto di Hernanes, giocatore che all'Inter mancava, anche se è stato pagato caro, però un giocatore che dà qualità, dà un po' questa scossa di adrenalina in mezzo al campo, che insomma è una squadra abbastanza piatta in mezzo al campo. L'ho vista discretamente, sufficientemente, una prova dell'Inter ieri contro il Sassuolo comunque rigenerato, però è una squadra ancora in difficoltà, ha tanti giocatori, mi sembra che un po' triste nel campo, poca voglia di osare, di rischiare. Ho visto un Milito un po' appesantito, quindi non sicuramente una buona Inter. È strano, perché devo essere sincero, Mazzarri l'ho sempre seguito negli anni, mi è sempre piaciuto, ha sempre tirato fuori il massimo dei suoi giocatori. Non ho la sensazione che abbia questa squadra in mano, cioè che riesca a trasmettere le sue idee che poi vengono viste sul campo. Sì, grazie Ale, grazie Alessio. Ciao Pierluigi, un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao Alessio Tacchinardi. Pier, parliamo di Inter subito dopo il traffico, ti va? Volentieri, molto okay, volentieri. Ok, dai. I don't think so. I think we have to drink champagne because we are improving. I think we are improving a lot. The team, the players, so the perspectives of champagne in the future are good. Tutti convocati. Io sono soddisfatto di tutto. Come giustamente ha detto lei, abbiamo rotto finalmente l'incantesimo, ci abbiamo messo anche oggi un po' troppo a fare gol e a sbloccare la partita, però da un punto di vista del gioco, di non aver concesso nulla alla squadra avversaria, insomma io sono contento sia della prestazione e finalmente anche del risultato. Contento della prestazione e del risultato. Mazzarri, Tagginardi prima ha detto che la sensazione è che non abbia quest'Inter propriamente in mano, io però dico che dopo una così lunga assenza di vittoria è molto difficile, perché giochi con veramente col mondo sulle spalle, Pier. Sì, credo proprio di sì. Io ieri ho visto una squadra non ancora perfetta, diciamo distantissima dalla perfezione, però ho visto anche una squadra che ha fatto una buona partita alla fine, viene da dire, perché dopo l'1-0 non ha rischiato nulla, perché il Sassuolo sicuramente non sono pervenuti tiri in porta, ed è un segnale vista la difficoltà che c'era in questo momento ambientale e tecnica della squadra. Poi c'è un aspetto invece più strettamente tattico, che è tutta da capire, perché insomma con Hernanes, Guarini e due punte, ieri abbiamo visto l'Inter almeno potenzialmente più offensiva in tutta la stagione, e bisognerà vedere se Mazzarri avrà questo coraggio e questo tipo di atteggiamento anche per il sabato a Firenze. Ci vuole tutto sto coraggio, scusami, per una squadra come l'Inter giocare con due punte non mi sembra una cosa abbastanza normale, anzi mi sembrava un po' anormale che si affidasse al solo Palacio là davanti, anche quando c'erano, non so, partite interne non con il Real Madrid o il Chelsea di Mourinho, ecco. Quindi sì, però lì era un discorso di oggettiva emergenza. A me sembra che Botta sia un giocatore discreto, interessante, sì. Interessante. Icardi ovviamente rimane un grande punto interrogativo. Milito è ancora in grande difficoltà. Molto. Senti, ma su Milito io ho avuto la sensazione, ieri ha avuto un paio di palloni, uno quello gli ha dato Palacio non benissimo in realtà con quella corsa sulla destra, io l'ho visto molto appesantito, sono d'accordo con Tacchinardi, cioè sono palloni in cui tu dici ah beh però ha fatto quello che poteva, no, il Milito che quello là, quello di prima, con quei palloni andava in porta. Sulla seconda palla gol ce ne sono state due in tre minuti, sì, che gli ha dato Palacio, sulla prima secondo me ha sbagliato veramente tanto, perché Palacio gli aveva dato un gran pallone, sulla seconda sbaglia l'assist Palacio, quel cross da destra, perché non gli dà il pallone rasoterra, gli dà il pallone alto, e sì, chiaramente col pallone alto devi prima stoppare e perde quella frazione di secondo, poi anche molto bravo Pegolo. No, a me sembra che Milito si sia molto impegnato, ha dato anche dei palloni interessanti davanti, però sì, mi ha fatto un po' un pochino tenerezza, posso dire questa parola, sì, cioè insomma la sensazione di un giocatore, spero di sbagliarmi perché ovviamente sta tornando dall'infortunio. E ragazzi, gli anni passano per tutti, anche per Milito, sì, che appunto, ha avuto un sacco, appunto, tra l'altro un sacco di problemi fisici. Ma dà un po' quella sensazione lì di un giocatore che ha perso quella frazione di secondo di reattività, certo, che sappiamo che per un attaccante è tutto, è il confine stesso fra segnare e non segnare. Bravissimo, è per quello che ti dico Sunset Boulevard secondo me Milito, perché su quei due palloni, anche sul secondo, guarda, su quel passaggio di Palacio che è vero era mezz'aria, però l'altro Milito io penso che avrebbe aggredito quel pallone con maggiore rapidità, con maggior reattività e poteva finire in un'altra maniera. Però oggi Andrea Elefante nelle sue pagelle sulla Gazzetta dice: non è ancora o non è più? Questa è la domanda, no? Per me non è più. Sì, io spero che sia non è ancora. Oh, grande diciamo giocatore, che gli infortuni ci sono alle spalle, cioè, sì, l'idea sì. Che sia ancora il rodaggio per poter può diventare cioè... giocatore tattico, quello del, che ne so, dell'ultimo quarto d'ora, non lo so, può cambiare pelle, però la sensazione è quella lì. Io sto facendo un tifo invece indemoniato per, sai cosa mi eccita tantissimo? La cosa che più seguo con no, non lo sai. Altani che potrebbe comprare il Cagliari. Ah, meraviglioso. Ma ti rendi conto? Cioè questa è la cosa che più... Ma va anche a Matrix ieri sera, ormai vado ovunque, sì. Vado in giro per i paesi. Sei come il prezzemolo. No, perché c'è questa cosa dell'Italia in vendita, no? Che è un tema ricorrente. Innanzitutto, se siamo in vendita, magari non ci renderà felici del tutto, ma è sempre meglio essere in vendita che non avere compratori. Bravissimo. Vuol dire che almeno qualcosa... ancora da esportare ce l'abbiamo, e mi sembra che poi di fondo da esportare abbiamo il Made in Italy, inteso come un certo tipo di qualità della vita, certi panorami, certi paesaggi, una certa, vabbè, tutto l'agroalimentare, che te lo dico a fare. Sì, ma che poi perché essere... questo? Perché Altani si interessa, no? Al Cagliari? Beh, perché? Perché la... Perché la Sardegna, la Sardegna ha un appeal, è certo. Perché Chertain viene a fare il socio di minoranza alla Roma? Perché ha le partecipazioni delle linee aeree cinesi. E ma certo, perché Roma è Roma, unica al mondo. Ma questo è perché l'unico presidente russo del calcio italiano è a Venezia? Ma certo. per queste ragioni. Ma d'altra parte, ma Altani a Cagliari, ma te ne immagini? Pronti via, Messi a Cagliari. Via. Meraviglioso. A Messi, corsa, grande Castello. Diamo un abbraccio veramente, anche perché posso dire, i tifosi del Cagliari sono veramente fra le vittime più innocenti di delle miserie del calcio italiano, no, tutti comunque... questi anni, dover emigrare, non sa, comprare l'abbonamento e poi scoprire, ah sì, settimana prossima gioca a Trieste, poi quella dopo... No, ma è uno schifo, quella è una roba che fa schifo, ma come fanno schifo gli stati italiani? Cioè, io voglio dire, anche a San Siro, cioè tu guardi, va bene Inter Sassuolo, però quello stadio totalmente vuoto. Parma, a Parma c'erano, contavi gli spettatori nella curva, no, avversaria. Parma hanno fischiato la squadra all'undicesimo risultato utile consecutivo. Sì, non esiste. Io farei dei prezzi molto democratici. Guarda, addirittura tirare dentro la gente. Venite qua, andiamo allo stadio, andiamo a San Siro, chiudiamo secondo anello, tutti giù, 10 euro posto unico, ma dai, almeno anche televisivamente, tu mi insegni, sarebbe uno spettacolo un po' più decente. Ma assolutamente, guarda, io su questo non è che io faccio l'ufficio stampa di Mediaset o di Sky dove lavoravo prima, però tutte le persone, tutti i dirigenti con i quali io ho parlato in questi anni a proposito delle televisioni e del calcio ti ripetono la stessa cosa e ci credono, cioè che noi vogliamo... anche da un punto di vista, oltre che per la passione, perché se facciamo questo lavoro è perché il calcio ci piace più o meno, no? Ma anche da un punto di vista di interesse televisivo, la partita deve avere lo stadio pieno, più persone ci sono e più l'evento è attraente. Quindi pensare che le televisioni Chiaro. Godano di aver svuotato gli stadi è sbagliato. Gli stadi non si sono svuotati perché ci sono le partite in televisione, perché in Inghilterra e in Germania ci sono le partite in televisione e c'è tutto esaurito. Gli stadi si sono svuotati perché fanno schifo, fanno specialmente schifo. Tanto è vero che lo fanno schifo, sono cari e difficilissimo andarci. Il più moderno, che è quello della Juve, sempre pieno. È tutto esaurito. Tutto esaurito ogni partita, ma perfetto. Alberto, provincia di Padova, buongiorno. Poi abbiamo Bruno da Rimini, Franco da Milano, ma mi sa che andremo dopo il GR. Alberto, dica. Buongiorno a tutti. Io vorrei intervenire sul discorso di Balotelli che facevate prima. Dica, sul sì. Fatto del che forse poteva essere il nuovo perno del Milan o cosa. Ma Balotelli è un ottimo giocatore, ma il perno del Milan io non ce lo vedo proprio. Ma nemmeno io, comunque. Chiariamo un punto. Cioè, secondo me non è un giocatore, una persona adatta a fare il leader di una squadra. Non sarà mai un leader, né emotivo e nemmeno tecnico. Quindi io sono d'accordissimo con quello che ha detto Pardo prima. Infatti, i perni delle società, delle squadre sono i Maldini, i Zanetti, i Baresi. Sono stati ben altri nomi. Balotelli è un ottimo giocatore, ma è equivalente a un Cassano, è destinato a cambiare tante società in tanti anni, perché probabilmente questo non so. Io continuo a pensare che tecnicamente sia ancora, cioè, sia il giocatore più forte del Milan e sia il più forte giocatore del calcio italiano. Vabbè, lasciamo stare Pirlo, lasciamo i grandi senatori, sto parlando anche in prospettiva. Però sono d'accordo sul fatto che non ce lo vedo come leader, ma questo non è un male, non è che per forza il grande giocatore debba essere leader, no Piano? No, No, però aiutami, mi verrebbe da dire. No, io quando dico leader, dico che io vorrei, glielo auguro con tutto il cuore, da Balotelli, una serie di stagioni da 18-20 gol e da 35 partite l'anno. Sì. Dove per 35 partite l'anno intendo quella capacità di controllare i nervi che gli può consentire di evitare squalifiche noiose. Sicuro. Che alla lunga lo condizionano. Questo Sicuro. È appunto, secondo me, fondamentale. Balotelli fino ad oggi è stato sempre un giocatore da exploit, anche l'europeo del 2012, dove lo ricordiamo perché ci ha fatto godere come dei ricci nel battere la Germania, è stato un europeo con luci e ombre, è iniziato malissimo, certo, con l'errore con la Spagna, dove poi Di Natale gli aveva anche fregato la maglia da titolare, poi è tornato all'Inghilterra in poi, ha fatto quindi alla fine una grande semifinale e poi in finale come tutti gli altri. Ma per il momento è un grandissimo incompiuto, vediamo se si compie, insomma, 23 possiamo ancora crederci, io penso. Grazie Pier, buon lavoro, ci vediamo stasera e ti vedo io, cioè tu te me vedi. Signor Busani. Allora non so se ti guardo. Infatti sono altamente deluso, ciao. Signor Pardo. Attento, signor Pardo. Ciao Pier. Ciao. Tutti convocati. Grande Armin, sei un grande atleta, un grande personaggio e siamo tutti contenti per te che hai fatto anche questa sesta medaglia. Messaggio di Neroffer a Zeri, vabbè, lo so, volete anche le parole di Neroffer sulla sua vittoria? Mi veniva a pezzi di dovevo dire devi spingere. E sono partito e prima della partenza ho detto: Inner è un'occasione, cerca di sfruttarla. Come ho detto, il mio obiettivo era divertirmi, era il mio grande sogno fare una medaglia alle Olimpiadi dopo che avevo realizzato i sogni a fare medaglia ai mondiali e dopo aver vinto le grandi classiche. E non ci posso veramente credere che sono riuscito a realizzare anche questo sogno. Dice Balotelli, credo con il giubbotto tra le mani sulla faccia dopo la conclusione. La natura è ancora su Balotelli e mi sembra che sia bene. Vabbè, Balotelli lascia stare, ma Bruno da Rimini, buongiorno, provincia di Rimini. Salve, buongiorno. Preferisci il Neroffer o i Guns N' Roses? No, non so. No, dica, io Guns N' Roses. Io non conosco nessuno dei due, quindi senta qua, senta. Beh, mica male. Come vedi il Milan, con il doppio mediano, tutte e due deboli, anche Sien. No, a me De Jong non parlo tecnicamente. De Jong tecnicamente sì, certamente è debole, e Sien un po' meno debole, magari possiamo discutere sul fatto che sia anche lui sul Sunset Boulevard oppure no, se sia ancora al top oppure no, però tecnicamente non è male. Ma Sien, se le guarda, nessuno dei due prima della costruzione del gioco sa cosa fare della palla prima che la palla le arrivi. Quindi perdono sempre tempo nella costruzione del gioco, non sono mai rapidi alla Pirlo, tanto per capirci. Beh certo, Pirlo ce n'è uno. Secondo me il Montolivo, con tutti i suoi limiti, per la costruzione del gioco del Milan sarebbe fondamentale. Però Bruno, cosa mettiamo? Montolivo lì insieme, mettiamo ad Essien, poniamo Essien, no, Montolivo e poi davanti altri tre e poi la palla chi la recupera? Va bene, però dobbiamo anche costruire. Sì, no, questo è in dubbio. Ecco, quindi dobbiamo anche costruire, perché con punte che hanno questa velocità di crociera facciamo fatica. Abbiamo visto l'ultimo arrivato, che è un po' di cambio di passo. Tarad. Ce l'ha. Ha fatto un gol da cinema. Ha sfruttato semplicemente una debolezza del Napoli che è permanente. Sì. Se lei va a vedere, minimo ha incassato 5 gol nella stessa maniera, sì, con i difensori che indietreggiano, tipo Cassano, bravo, quello di due domeniche fa. Bravo, io, questo è vero. Bruno, questo è verissimo. Ha fatto, concordo totalmente su questo appunto, però il tiro l'ha fatto Tarant, quel tiro a giro così, oh, tanta roba, secondo me. Poi, guarda, doppio mediano, se vuoi mettere, dici, ok, la mia qualità è davanti, allora qui recupero il pallone e là, dove giocano, in teoria, il Kaká, e Onda, e Robinho, e Tarant e chi volete voi, comunque quei tre, almeno tre giocatori molto offensivi, allora tu dici qua recupero pallone e poi lo costruisco lì il gioco. Non lo so se possa, secondo me Seedorf fa bene ad insistere su questa strada. Poi è evidente che per far ripartire il gioco Essien e tanto meno De Jong non sono esattamente l'ideale, cioè non è esattamente il loro mestiere. Franco. Sì, buongiorno. Meglio in Nerofer o Guns N' Roses? Oh, è uguale per me. Ma come uguale? Ascolti un attimo. Sì. Io cioè, devo parlare soprattutto di Sedo. Di Sedo. Le parole sono tutte lacrime del... Vabbè, guardi, a me posso dirle, delle lacrime di Balotelli non me ne importa niente. Esatto, anche a me, no. Cioè, infatti non volevo parlare di questo. Mm. Devo parlare di Sedo, che sì, per me non va bene, secondo la mia opinione, Sì. Cioè, altro che il gioco spettacolo. Lui cioè, vuole fare il gioco spettacolo come dal Barça. E... vedi, c'è la Coppa Italia che l'abbiamo persa in casa contro l'Udinese. Perché ha avuto strafare, ha avuto fare il gioco spettacolo. Mm. Ma sa, vedi che ha sempre ragione Gagliani? L'uomo giusto per questa squadra, sì, almeno fino a giugno, era il nostro amico Pippo. Ma ho capito, ma sì, però se anche dal punto di vista di Inzaghi, cioè lo prendi, lo metti lì fino a giugno, lo bruci, gli dai una responsabilità. Adesso vediamo, io credo che diventerà un eccellente allenatore, però sta ancora studiando. Se tu sai già che Seedorf è il futuro, è quello dell'anno prossimo, allora tanto vale prenderlo subito. Poi ulteriormente non abbiamo una controprova, come si fa a dire vabbè, era meglio Inzaghi o è meglio Seedorf? Una settimana fa eravamo qua a dire vabbè, il Milan non è brillante, perché non era brillante nemmeno prima, non ha ancora incantato con Seedorf e questa volta addirittura fatto malissimo. Però secondo me vale la pena aspettare un attimino. Non butterei via tutto al momento, cioè tutte le idee di Seedorf al momento, nonostante questa pessima partita di Napoli. Questo Milan non è all'altezza del Napoli, anche probabilmente con un altro assetto tattico. È vero anche che aveva un sacco di giocatori fuori, influenzati, mezzi malati, eccetera eccetera. Abbiamo visto Abate, vabbè, un ruolo non esattamente suo. Sì, Sacchetti, Meo Sacchetti, che ha portato la Coppa Italia del basket a Sassari, questa grande impresa. Noi giochiamo una pallacanestro, un modo di vedere la pallacanestro, che sono anni che ci dicono siete molto bravi, siete molto belli e siete tutti, però alla fine per vincere qualcosa non si può fare questo tipo di pallacanestro. Adesso io ho vinto questo, è logico che, come vi ho detto, poi vincere i playoff e cosa è un altro discorso, però penso che la pallacanestro è bella perché ci sono diversi modi di giocarla. No, uno gioca con i giocatori che ha e con quello che crede. Certe volte le cose sono belle e certe volte non vengono bene. Noi negli anni passati abbiamo fatto delle partite come il primo tempo, delle partite molto molto importanti, molte cose. È logico che ci mancava forse una ciliegina sotto questo aspetto qua. Che meraviglia, sul palcoscenico dei ricchissimi strafavoriti Armani Milano e battendo quelli che hanno tricolore sulle magliette, Meo Sacchetti si porta la Coppa Italia a Sassari in attesa di Altani, che arriverà, speriamo, a Cagliari. Enzo, provincia di Arezzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Non so se questa mia domanda arriva un pochino fuori tempo. Ma non c'è nessun tempo. Allora, abbiamo ancora 5 minuti, quindi siamo perfettamente in tempo. No, fuori tempo come argomento, se l'avete già trattato. Ma non c'è problema. Io volevo fare una semplice osservazione. A me Balotelli non sembra un centravanti vero. Cioè, mi sembra una punta, sì, ma è un grosso giocatore che va caricato, va lanciato e allora può esprimere il meglio di sé. Credo che Balotelli in coppia con Pazzini possa dare il meglio di sé. Con Robinho non ce lo vedo molto bene. Voi che ne pensate? Bah, io credo che Balotelli dovrebbe trovare innanzitutto continuità, nel senso, come diceva anche prima Pardo, continuità di impiego. Non lo so se sia meglio come prima punta, come seconda punta. Certamente è un giocatore in grado, come si fa nel basket, di costruirsi un tiro, di costruirsi un gol eventualmente anche da solo. Quando ha molto spazio intorno, secondo me questa caratteristica risalta in maniera più evidente. Io credo che non sia tanto un problema di partner offensivo. Può giocare con Pazzini, quindi da seconda punta, può giocare da solo con due larghi ai lati, eccetera, eccetera. non so dove potrebbe brillare di più. Certamente lui deve trovare continuità di impiego, poi i gol li segna, perché ragazzi non cominciate a dirmi vabbè, ma i rigori, beh, i rigori bisogna segnarli, cioè per tutti i grandi attaccanti, quasi tutti i grandi attaccanti tirano i rigori e si contano i rigori nella casella dei gol fatti, non è che non si contano, infatti 21 in 30 partite con il Milan non sono pochi. Francesco, provincia di Modena. Sì, buongiorno Carlo. Buongiorno. E io volevo parlare un secondo velocemente di Conte, della sua iata, insomma ne hai parlato anche tu sì. abbondantemente. Io credo che sia un modo anche un po' egotico, no? Suo di ricordare a tutti quanti i meriti ha nella costruzione di questa Juve, cioè che la gente non si dimentichi quanto Conte abbia fatto dalle macerie e queste sfogliate siano un modo per... oltre che tenere insomma sulla squadra a livello emotivo anche per un po' ricordare i suoi meriti, non so se sei d'accordo, ma sì, sono d'accordo. Per far capire che insomma ok, siamo forti tecnicamente, tutto quello che volete, ma senza la mia impronta non sì, si va da nessuna sì, parte. Sì, sì, no, ma certamente, ma io sono convinto di quello che ho detto prima, e cioè laddove la classifica non ti offre grandi armi psicologiche per tenere sulla corda il gruppo, perché più 9 è più 9 ed è tanta roba, torno a ripetere, un qualcosa di difficilmente rimontabile, difficilmente colmabile. Non dimentichiamo, prima fuori onda ho avuto una discussione con il signor Cruciani stasera a Tiki Taka, e che domani sarà qui, gli ho detto domani vieni a fare un salto che litighiamo un po'. Comunque secondo me la Roma ieri ha perso terreno, cioè per colmare quel distacco hai bisogno di qualche impresa straordinaria, cioè di non stare a guardare, vabbè un punto nel derby ci può stare, la corsa è lunga, no, la corsa è quasi finita, quindi la Roma ha davvero bisogno di non fare calcoli, di provare a vincere sempre, perché è l'unico modo per pensare di... così, di arrivare alla visione del confronto diretto un po' vicino alla Juventus. Non dimentichiamo però che la Juventus ha vinto 3-0 il confronto diretto, e quindi è come se, insomma, se avesse 10 punti di vantaggio, perché mettiamo la Roma arrivi a meno 3 il giorno del confronto diretto, per superare la Juventus deve batterla 4-0, insomma non la vedo benissimo, vi dico la verità, non vedo benissimo le sorti di questo campionato, ahimè, ai noi. Italia campione d'Europa di calcio a 5. Va bene, battuta in finale la Russia. Quindi? Vabbè. Ah, ok, va bene. Successo ieri, diamo anche questa notizia. No, ma complimenti per come sa sminuire le imprese di chi suda negli sport minori come lo sci. Boh, lo sci non è uno sport minore, non mi pare di sminuire nessuno, ma sudano anche tutti gli altri, cioè sudano anche i calciatori, i cestisti. Dimmi un altro sport, i pallavolisti, non mi sembra il caso di fare tantissima demagogia sul fatto a questi fan fatica con gli altri no, anzi io dico che giocare, che fare sport professionistico con la pressione che ad esempio i calciatori hanno addosso sia una cosa estremamente complicata. Vabbè, ne parliamo domani se volete. Franco Pentelli, autore di questo programma, Roberto Scaltriti, regia, ciao.